Salva Danaio di Deborah Rosciani. Ci ritrovati, ricomincia la settimana di Salva Danaio. Buona giornata da Deborah Rosciani. Allora, la recente manovra finanziaria di aggiustamento dei conti pubblici ha introdotto tante novità che abbiamo affrontato già in numerose puntate di Salva Danaio. Vi ricordo peraltro che domani ritorniamo sulle pensioni, perché oggi il Sole pubblica anche un instant book con tutte le novità. Vi ricordo che è venduto a parte, quindi bisogna chiederlo in edicola, costa 4,90 euro, così per essere trasparenti su questa informazione. Però oggi con il Sole 24 ore, questa è allegata invece al quotidiano, c'è la quarta guida pratica, ormai un appuntamento fisso del lunedì. Oggi, come vi anticipavo anche settimana scorsa, ne avremo parlato, ci sono tutte le novità per la casa. La guida ha le stesse modalità delle altre che vi abbiamo presentato nei lunedì che ci hanno preceduto. Il Sole mette a disposizione un pool di esperti che già da stamattina stanno rispondendo alle domande inviate via mail dai lettori. Adesso vi spiegheremo come fare per collegare e inoltrare i vostri quesiti, ma i vostri quesiti sulle nuove regole per rogiti e affitti li potete rivolgere anche a noi di Salva Danaio all'800240024, oppure scrivendoci al 349-238-6666. Mi stavo dimenticando il numero per scriverci stamattina, siamo pure un po' distratti. Allora, intanto bentornato al nostro collega del Sole 24 Ore, Cristiano Dell'Oste, che era già con noi settimana scorsa per l'università, non sbaglio, due settimane fa uscito, no, settimana scorsa. Buongiorno a tutti. Non ho proprio più il controllo del tempo. E bentornato anche perché da un po' che manca l'appello, notaio Angelo Busani, che stamattina firma diversi articoli sulle novità legate soprattutto all'atto di compravendita della casa che entreranno a regime dal 1 luglio. Notaio, bentornato. Buongiorno. Si a tutti, distragga con Dell'Oste, che già li vedo stamattina, sono due ragazzacci quelli che abbiamo ospiti. Allora, vi ho ricordato naturalmente i numeri per interagire con noi. E quindi adesso vi spiegheremo esattamente cosa cambia, perché ci sono delle novità molto importanti. Peraltro torneremo anche, oltre che sulle novità relative al rogito, c'è tutta anche la questione, la partita molto importante delle cosiddette case fantasma, che abbiamo già affrontato in una puntata di Soldi e Dintorni con Cristiano, e quindi ci ritorniamo, insomma, il censimento delle abitazioni che non sono esattamente in regola con il catasto, con tante altre normative. Stamattina ci ritorniamo perché proprio il Sole aveva fatto questa sorta di censimento individuando circa 2 milioni non di case ma di particelle, perché così si chiamano appunto queste parti, magari frutto di ampliamenti di abitazioni che comunque devono essere messe in regola con il fisco, con il catasto e quant'altro. Allora, i numeri ve li ho dati rapidamente, la borsa, perché questo è un tema che so vi piace molto, quindi vi darà l'opportunità stamattina di farci molte domande. La borsa stamattina è molto buona, la settimana parte con il botto per le borse del vecchio continente, il botto positivo. Parigi più 1,56, Francoforte più 1,24, Londra più sottotono, qua sta pesando ancora British Petroleum più 0,6%, per la City Milano più 2 invece. Stamattina corrono al galoppo i titoli assicurativi, i titoli bancari, ma anche Fiat, in questo momento è Fondiaria che guida Milano più 4%, ma anche Unicredit più 3,26, ritorna sopra l'euro e 80, Fiat più 3,25, Buzzi più 3, Monte dei Paschi più 3, Tenaris più 2,93%, Generali più 2,88%. Nessun segno meno sulle principali paniere di Piazza Affari, sono poco mossi Luxottica e Bulgari, Ansaldo più 0,15, Snam più 0,44%. Molto ben impostato anche il rapporto fra le valute, nel senso favorevole all'euro. Sul biglietto verde la moneta unica europea quota stamattina 1,22,48, quindi bel recupero anche per la divisa del vecchio continente. Andiamo adesso alle novità della recente manovra finanziaria sulla casa. La recente manovra varata dal governo ha apportato diverse novità all'interno della casa. Dalle nuove procedure nella compravendita ai nuovi adempimenti fiscali in caso di locazione, sono tanti i nuovi adempimenti per chi deve acquistare o affittare un'abitazione. Lo scopo è stringere il cerchio intorno alle cosiddette case fantasma, quelle cioè mai denunciate al catasto o altrimenti quelle che con il tempo hanno subito variazioni non dichiarate. In generale, per quanto riguarda le compravendite di unità urbane, a partire dal prossimo 1 luglio, oltre all'identificazione catastale, l'atto dovrà contenere, tra l'altro, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari riguardo la conformità dei dati catastali e delle planimetrie, pena la nullità del contratto. In caso di locazione, sempre dal 1 luglio, sarà invece obbligatorio indicare i dati catastali sulle richieste di registrazione dei contratti. Per rintracciare questi dati, la strada migliore è consultare il rogito, le dichiarazioni di successioni o gli atti pubblici di donazione, anche se non è detto che i dati individuati siano conformi agli attuali. Sì, stavamo già affrontando alcuni dei temi che in realtà non sono esattamente oggetto della puntata di questa mattina, però il dibattito lo vedo già piuttosto animato. Allora, Cristiano, prima di sentire i nostri ascoltatori che già si stanno mettendo in lista per rivolgere dei quesiti sui temi di stamattina, possiamo spiegare la dinamica per interagire con i vostri consulenti? Con sì, i consulenti assolutamente, del Sole, sì, assolutamente sì. C'è un indirizzo dedicato che si trova al sito del Sole 24 Ore, bisogna collegarsi appunto al sito www.ilsole24ore.com, poi si fa slash, cioè la barra, manovra casa, scritto tutto attaccato, e da lì si trova appunto la possibilità di inserire i propri quesiti digitandoli direttamente in una mascherina che si apre. In alternativa ci si può arrivare anche passando dalla home page del sito del Sole 24 Ore, insomma in un modo o nell'altro si arriva. Si possono mandare i quesiti fino alle 18 di oggi, poi una prima selezione sarà pubblicata sul giornale di domani e gli altri a seguire, diciamo la serie completa delle domande e delle risposte poi saranno messe sul sito, sempre in questa sezione manovra casa, nei prossimi giorni. Ma i lettori che scrivono non ricevono anche una risposta privata? No, la vedono poi direttamente sul sito. Sul quotidiano, esatto, perfetto. Esatto. Sul sito, quotidiano, benissimo. Notaio Busani, andiamo subito a parlare un po' di ciccia, perché forse questa è quella che ci interessa di più, le novità sui rogiti, a partire dal 1 luglio, quindi già cominciamo con lo spazio. Chi non aveva assolutamente in mente l'arrivo di queste novità e magari ha firmato un compromesso per l'acquisto di una casa 3 mesi fa, invece adesso magari ha fissato il rogito per il 5 luglio, con che documentazione si deve presentare, sperando che naturalmente il notaio a cui ci si è rivolti abbia fatto tutto il proprio dovere, abbia anche monitorato l'evoluzione legislativa degli ultimi giorni. Sì, non bisogna però spaventarsi eccessivamente per queste novità richieste dalla normativa di recente entrata in vigore. Questa normativa punta molto l'attenzione sulla regolarità catastale dei fabbricati, un aspetto dove in passato vi era un'attenzione minore, in passato non vi era preclusione alla vendita di fabbricati anche accatastati non correttamente, non vi era preclusione alla compravendita per planimetrie magari difformi dello stato di fatto, non vi era preclusione alla vendita se l'intestazione catastale di un bene era difforme dall'intestazione reale del bene stesso. Capita spesso che il catasto, questo i non addetti ai lavori magari non lo capiscono granché, capita spesso che l'intestazione in catasto sia diversa da quella dei registri immobiliari, quest'ultima è quella che vale, quella catastale è più anagrafica che giuridica. Fatto sta che queste due intestazioni possono differire. Se volete poi facciamo degli esempi. Sì, magari sì. In ogni caso il patto era che queste anomalie non fossero vistosissime, quindi diciamo si poteva chiudere un occhio di fronte ad anomalie ragionevoli. Ma non era che si chiudeva un occhio. Voglio dire, se vendiamo un appartamento disegnato male in catasto, ad esempio perché si sono fatti lavori, attenzione, anche assolutamente regolari, certo, perché magari preceduti da permessi comunali, da dichiarazioni di attività, e poi magari ci si scordava o si ritardava l'accatastamento, non era che per questo il contratto non si potesse fare. È chiaro che c'era un sistema da mettere in campo, un sistema di garanzie perché l'acquirente poi alla fine si trovasse comunque una situazione regolare, anche se sistemata ex post rispetto al rogito. Quindi il problema è che i contraenti avessero entrambi soddisfazione dei loro interessi, l'acquirente di comprare una cosa in regola o che non desse adito a sorprese o a costi imprevisti, e il venditore di avere il pagamento del suo prezzo. Ecco, queste cose che si potevano sistemare anche in itinere, anche ex post, anche mettendosi d'accordo in mille maniere, d'ora in poi non si possono più fare, nel senso che d'ora in poi occorre un perfetto allineamento tra le banche dati del catasto e della conservatoria. Quindi se si è per esempio ristruttura radicalmente casa, devo fare una comunicazione più o meno immediata al catasto per variazione, per esempio destinazione d'uso, si cambia la posizione di un bagno e quindi questa cosa va comunicata immediatamente. Esatto. Fino a ieri, fino a oggi, cioè oggi compreso, fino al 1 luglio, anche se il bagno non è disegnato correttamente in catasto, l'importante è che la situazione sia sul tavolo e sia chiara e trasparente. Chiara e trasparente, si poteva fare. Ecco, dal primo luglio in avanti, sempre che queste norme non cambino, perché dobbiamo ricordare per correttezza che siamo sotto decreto legge, quindi c'è il passaggio parlamentare, e dobbiamo ricordare per correttezza che l'esperienza brutta insegna che queste norme, una volta emanate, vengono nella massima parte dei casi cambiate, perché all'impatto con la realtà pratica poi ci si rende conto che non funzionano. Ma comunque, ipotizzando che siano queste le regole che entreranno in vigore il 1 luglio, e ipotizzando che queste regole rimangano stabili, quello che questa norma vuol dire è: il rogito si fa solamente se c'è un perfetto allineamento tra registri immobiliari e registri catastali. Il rogito non si fa se il catasto dà delle risultanze formali difforme dallo stato di fatto sostanziale dell'appartamento. Questo è il messaggio. Salva Danaio oggi ritorna con la collaborazione con il Sole 24 Ore sui temi della casa, e cerchiamo di spiegare che cosa cambia dal 1 luglio per chi sta andando a rogitare per fare ovviamente la compravendita di un'abitazione. Quindi tutti i nuovi obblighi a cui deve ottemperare sia il venditore che il compratore. Dati catastali obbligatori dal 1 luglio sui contratti a pena di nullità del contratto stesso. Stamattina ci stanno aiutando Cristiano Dell'Oste, collega del Sole 24 Ore, e il notaio Angelo Busani. Allora, notaio, un piccolo riepilogo rispetto a quello che dicevamo prima della nostra pausa. La novità appunto dal 1 luglio, ricordando che naturalmente tutta la nuova disciplina sarà oggetto di dibattito parlamentare, quindi potrebbe cambiare ulteriormente, ma sulla base di quello che abbiamo, come dobbiamo andare a rogitare in regola, e soprattutto quali sono poi gli obblighi a cui deve ottemperare il notaio, perché chiaramente le ricadute pratiche ci sono anche su questa figura professionale, su professionista. Sì, certo, il notaio dovrà verificare che tutto in ordine, ovviamente il mettere in ordine le cose è compito al 95% delle parti. Cosa si tratta di mettere in ordine? Si tratta di mettere in ordine i dati catastali della casa. Non si potrà più vendere come ufficio un appartamento, come appartamento un ufficio, come negozio un'autorimessa, eccetera. Bisognerà che le planimetrie catastali siano in ordine, cioè rispondano esattamente allo stato di fatto dei beni. Quindi qua in primo luogo sono i contraenti che devono guardare le loro cose. Il venditore, che sa benissimo ciò che vende, deve vedere se è raffigurato bene in planimetria catastale. L'acquirente, che sa perfettamente ciò che compra, deve verificare che ciò che compra conforme a questo disegno che è depositato in catasto. Infine, questo è un po' più difficile, ma insomma voglio dire che qualunque persona istruita ci può arrivare: bisogna controllare il cosiddetto certificato catastale, la cosiddetta visura catastale, dove ci sono i dati numerici che identificano nel catasto una unità immobiliare. Bisogna vedere che nell'intestazione in cima a sto certificato c'è scritto di chi è quella particella, quel subalterno, quel mappale. Bisogna controllare che all'attuale proprietario coincida questa intestazione. Questo talvolta non capita, un po' per inefficienza degli uffici, un po' perché si tratta di pratiche vecchie, un po' perché sono capitati dei passaggi come quelli successori che non sono stati registrati. Insomma, bisogna controllare che in catasto ci sono due, essenzialmente, cosa fa il catasto di mestiere? Il catasto fa due mestieri: fa un mestiere di raffigurazione cartografica del patrimonio immobiliare italiano. Nel catasto, in ogni capoluogo di provincia, c'è una raccolta delle planimetrie catastali di tutti i terreni del territorio, di tutte le case del territorio. Quindi ciascun immobile che noi vediamo, sia esso un terreno, sia esso una casa, è raffigurato in catasto. Ognuno di noi, per casa sua, ha la sua planimetria depositata in catasto. Quindi occorre che questa planimetria sia conforme allo stato di fatto dei beni. Potrebbe non essere conforme perché? Perché ho ricavato il secondo bagno e non l'ho dichiarato in catasto, che i lavori fossero regolari o meno. Ovviamente se non erano regolari non l'ho dichiarato, ma potrebbe essere anche non dichiarato un lavoro assolutamente regolare. Questo è il primo lavoro che fa il catasto: raffigurazione cartografica. Il secondo lavoro che fa il catasto è tradurre le planimetrie in numeri, sia per identificare l'unità immobiliare, quindi applicarci tutta la fiscalità sopra, foglio mappale subalterno, sia per identificare numericamente la destinazione d'uso, appartamento, ufficio, negozio, opificio, sia per dare da questi dati a ricavare la rendita catastale, che è quel numerino da cui, per effetto del quale poi si pagano le imposte. Ebbene, questa raffigurazione numerica del bene immobile ha un'intestazione, cioè i numeri sono riferiti a dei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Bisogna che sta intestazione, che in gergo si chiama ditta catastale, coincida esattamente con i titolari dei diritti reali sui beni. Cioè, se siamo tre fratelli che abbiamo ereditato, la ditta catastale deve essere intestata a noi tre, non può più essere intestata a nostro padre che è defunto. se ci sono due coniugi in comunione dei beni, bisogna che l'intestazione rechi il fatto che i coniugi sono in comunione dei beni. Se c'è un usufrutto e una nuda proprietà, bisogna che sia identificato il nudo proprietario e l'usufruttuario. Sembra facile dirlo, quello che io vorrei anche che voi mi aiutaste a dire, che ovviamente non tutti quanti adesso devono prendere e correre, andare al catasto a fare l'aggiornamento catastale. Cristiano, intanto l'importante è che lo facciano nell'imminenza di una vendita. Esattamente, certo, chi certo sta andando a rogitare a breve. E secondo te avete fatto anche un calcolo di quanti aggiornamenti catastali devono essere fatti in Italia? No, allora diciamo questo, diciamo che ci sono una serie di piccole difformità che potrebbero essere appunto frutto di operazioni effettuate all'interno della propria abitazione, anche da chi ha costruito un ripostiglio, da chi ha aggiunto un secondo bagno e così via, che non sono note e che dovranno essere messe in regola. E poi c'è invece un'altra operazione, che è una mappatura che ha fatto a partire dal 2007 l'Agenzia del Territorio, che ha fotografato dall'alto tutto il territorio italiano, lo ha sovrapposto alle mappe catastali e ha evidenziato una serie di potenziali anomalie, e in particolare le ha evidenziate su più di 2 milioni di particelle, cioè di porzioni di mappa, diciamo, di pezzettini di mappa, sulle quali è stato identificato qualcosa che non era perfettamente che giornalisticamente abbiamo definito case fantasma. Esatto. In realtà si tratta di qualcosa di un po' più contenuto, come dire. Sì, potrebbero non essere intere abitazioni. Potrebbero essere intere abitazioni, potrebbero essere garage, potrebbero essere magazzini, potrebbero essere anche tettoie che non hanno bisogno di essere accatastate perché sono magari strutture mobili, potrebbero essere, in alcuni casi lo si è verificato anche, ad esempio, coperture per l'agricoltura, coperture per proprio il raccolto, che dei teloni che fotografati dall'alto sembrano degli edifici. Questo ovviamente andrà verificato, gli stessi proprietari potranno far valere il fatto che in realtà non c'è nulla di edificato su quell'edificio, e quindi la questione si risolverà in qualche modo da sola. Però per le cosiddette particelle fantasma la regolarizzazione va fatta in maniera diversa rispetto agli aggiornamenti catastali di cui parlavamo prima. Sono due tipologie differenti, nel senso che in un caso, ed è appunto il caso minore di cui stavamo parlando prima, si è in presenza di una variazione di consistenza o di destinazione catastale, quindi un qualcosa di meno rilevante. Nel caso della casa fantasma vera e propria si è in presenza di un fabbricato che è stato interamente mai dichiarato al catasto e che quindi dovrà essere intanto accatastato, ma potrà avere, e questo è un profilo importante da ricordare, potrà avere dei problemi di regolarità edilizia urbanistica, quindi potrebbe essere realizzato in modo abusivo, e allora se si è in presenza di un fabbricato abusivo ci saranno delle cose che non possono essere regolarizzate, nel senso che è bene ricordare che la regolarizzazione catastale attiene ai profili catastali. Poi se l'immobile è abusivo perché è stato costruito in una zona vincolata, perché è stato costruito dove non poteva essere costruito, non potrà comunque essere sanato, a meno che nel percorso di conversione del decreto legge non venga introdotto un provvedimento di condono edilizio, ma di condono vero e proprio, che per ora non c'è e che potrebbe arrivare, ricordiamolo, esatto, la data di conversione è il 30 di luglio, quindi questo è un po' il discrimine entro il quale si dovrà vedere che cosa succederà. Ecco. Allora, 800 24 00 24, il numero verde è per voi, sono già le 12.42, ancora non si è riusciti a sentire nessun ascoltatore, cominciamo subito, recuperiamo rapidamente, sentiamo Luciano da Roma. Luciano, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie, Luciano. Si illustra di tanto. Chiedo scusa, io ho un problema non anomalo rispetto a quello che dite voi, perché è una costruzione del 1958, accatastata nel 1976. A tutt'oggi ho sempre pagato le mie tasse tranquillamente, fa parte di una successione tra fratelli. Oggi questa successione deve essere ancora fatta di nuovo sempre tra i fratelli, ossia da tre proprietari vorremmo che diventi un solo proprietario per poi arrivare a venderla. Il problema sta in questo: non si trova la licenza di costruzione. Fa parte di una chiamiamola lottizzazione che è stata fatta con qualche cosa che risale al 1943, perciò una cooperativa abbastanza grande, abbastanza importante. Ma si figuri, Luciano, che tutt'oggi ci sono certi costruttori che fanno fatica a rilasciare tutta la documentazione completa per i rogi, figuriamoci recuperare quella del 58. Guardi, a giudicare dalla faccia del notaio Busani non mi sembra una cosa gravissima, però notaio. No, non è neanche grave, è normale, nel senso che non ci vuole assolutamente la licenza di costruzione per poter vendere questo fabbricato, in quanto la legge 28 febbraio 85 numero 47 all'articolo 40 dispone che i fabbricati costruiti in data anteriore al 1 settembre 1967, come è il caso in esame, possono essere venduti, possono essere fatti oggetto di contratti traslativi con il solo fatto che il venditore dichiari la costruzione anteriore al 67. Questa norma è stata fatta perché in quell'epoca e precedentemente vi erano moltissimi comuni privi di piani regolatori e quindi la costruzione non doveva nemmeno essere abilitata preventivamente dal comune. Quindi per risolvere i problemi dei fabbricati vecchi, la legge 47 dell'85, quella che introdusse il famoso primo condono, disse: facciamo uno spartiacque tra il 67 prima e dopo, e tutto ciò che è prima del 67 è liberamente vendibile con una mera dichiarazione del venditore. Quindi se la casa è accatastata bene, cioè se lo stato di fatto corrisponde alle planimetrie, se la raffigurazione numerica del catasto risponde allo stato d'uso del bene, se la particella è intestata giusta ai tre fratelli, poi magari uno, se uno rileva le quote degli altri due, fatto sta che questa casa è perfettamente vendibile già oggi. No, volevo risentire Luciano, ma qualcuno aveva sollevato un'obiezione relativamente all'inesistenza del documento che attesti la licenza di costruzione? I documenti che attestano tutta la validità. L'unica manca, sì, perché siamo stati da un notaio per fare questa, ancora questa divisione in sostanza, per fare un solo proprietario. E lui vi ha chiesto questo documento? E lui ha chiesto questa licenza di... E allora guardi, faccia una caso Luciano, ci scriva e noi le diamo magari tutti gli estremi di questa legge che ha citato il notaio Busani. No, ma probabilmente il notaio non è stato avvertito del fatto che è ante 67, basta dirgli che è ante 67 e è lui legge, capirà al è una volo. Legge che usiamo da 30 anni, non c'è nessun problema. Ha capito Luciano? Esattamente quello che lei mi ha detto, chiedo solo un'illuminazione. Su Radio 24 io posso andare sul computer e trovare questa trasmissione? Certamente, certamente. Poi dopo le diamo tutte le indicazioni per poter scaricare la nostra puntata. Grazie Luciano. Lei è gentilissimo. Allora, per adesso rilasciamo da parte i rogiti e ritorniamo invece ad un altro tema che ci permette di sollevare Paola da Roma, che è quello degli affitti e le novità in questo settore, in questo ambito. Paola, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare questa domanda. Io sono un proprietario di un piccolo appartamento che ho dato in affitto con il contratto agevolato concordato tra l'Unione Piccoli Proprietari Italiani e il Sindacato degli Inquilini e il Comune di Roma. Affitto appartamento, si affitta a 3+2, è un affitto 3+2 anni e leggermente inferiore, penso inferiore al mercato. Sì. E si hanno agevolazioni sulla registrazione e sulla dichiarazione dei redditi. Sì. Ora poi c'è mio marito che si occupa di questo, ma sostanzialmente ci sono queste agevolazioni. Con questa nuova legge, decreto legge, si cambia qualcosa? Con anche per voi. Grazie Paola. Chi mi risponde? Cristiano. Ma diciamo subito che l'obbligo che entra in vigore il 1 luglio riguarda la registrazione dei contratti di locazione, sia dei fabbricati sia dei terreni, e riguarda appunto registrazioni, proroghe e risoluzioni anticipate. Questo dice la legge. Quindi se, al momento la signora non deve modificare non deve modificare nulla. Il suo contratto è già in essere, quindi non è una nuova stipulazione. Con ogni probabilità lei avrà già anche registrato il contratto per più annualità. Se invece dovesse registrare alle entrate, diciamo, le annualità successive, allora in quel caso lì saremmo di fronte a un punto in cui probabilmente, dico probabilmente perché il testo non è del tutto chiaro, ma parrebbe lasciarlo intendere, dovrebbe nella registrazione indicare anche i dati catastali dell'appartamento in questione. Si tratta di una piccola formalità, quindi non è un problema nel caso, come presumo, sia tutto in regola sotto il profilo catastale, perché quello che ci ha raccontato, addirittura ha scelto un contratto agevolato, che sono una fattispecie piuttosto rara, quindi voglio dire, si è mossa finora bene. Dovrebbe semplicemente aggiungere gli estremi catastali alla prima registrazione utile del contratto a fini fiscali, però assolutamente il contratto in essere non ha bisogno di essere toccato in nulla. Quindi rapidamente, Cristiano, il vademecum per chi si accinge a stipulare un contratto d'affitto dal 1 luglio in avanti, cosa deve fare? Allora, deve normalmente stipulare il proprio contratto d'affitto, poi al momento della registrazione, nella registrazione inserire anche i dati catastali dell'immobile. Ovviamente vale quanto dicevamo prima per le compravendite, i dati catastali devono essere corretti. Quindi mi pare di capire che comunque sia un obbligo in capo al proprietario dell'abitazione, quindi a chi dà l'affitto. Tendenzialmente chi dà l'immobile, sì, perché è lui ad avere in mano... No, tendenzialmente è il proprietario che ha in mano, diciamo, tutta la documentazione. Diverso è la ripartizione ripartizione delle spese di registrazione, o meglio dell'imposta di registro, per essere precisi, sul contratto, che normalmente viene divisa a metà tra proprietario e affittuario. Allora, rapidamente, Piero da Taranto, buongiorno. Non è propriamente il tema di stamattina, ma abbiamo voluto accontentarlo lo stesso. Piero, buongiorno. Buongiorno, grazie, complimenti per la trasmissione. Siccome parlo per mio figlio, il 16 di febbraio mio figlio ha comprato un appartamento risalente al 1940 da ristrutturare, sì. No? Poi economicamente non ce la faceva e lo sta vendendo di nuovo, sì. Perdendo tutte le agevolazioni, certo, che avente diritto inerente alla prima casa, sì. Adesso la mia domanda è questa: volevo sapere su quale base l'ufficio delle entrate mette la sua imposta e come poterla pagare in caso lui non volesse più entro un anno ricomprare un altro appartamento. Esattamente, Piero, perché dice, certo, se non ce la fa pagare questa è ovvio che la vende e non è in grado problema. Di poterne contestualmente appunto ricomprare un'altra. Allora, che cosa succede al figlio di Piero, notaio Busani? E succede che rivendendo prima di 5 anni dall'acquisto della prima casa decade dalle agevolazioni che gli sono state concesse quando ha stipulato l'acquisto. Ciò significa che lo Stato gli recupera l'imposta ordinaria, e quindi la differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta versata in modo agevolato, e gli applica su questa differenza una sanzione del 30%. Il tutto capita se entro un anno dalla vendita non ricompra un altro immobile, perché ovvio ricomprarsi un altro immobile entro un anno dalla vendita non avrebbe questo effetto di decadenza dall'agevolazione. Per pagare come si fa? Passato l'anno l'Agenzia delle Entrate dovrebbe notificare un avviso di liquidazione di questa sanzione, di questa imposta. Il consiglio, se non ricompera, è di presentarsi spontaneamente all'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto di acquisto, perché autodenunciandosi taluni uffici dell'agenzia consentono una rateizzazione di non applicare la sanzione / di applicarla in forma ridotta con delle percentuali ridotte. Quindi se uno sa di non ricomprare prima che gli arrivi l'avviso di liquidazione delle sanzioni, è meglio che si autodenunci e sconti possibilmente una sanzione di importo ridotto. Chiarissimo. Vincenzo da Brescia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Domanda veloce. Io 15 anni fa circa ho comprato un appartamento nel quale vivo. Sì. Nel fare le opere di agibilità, diciamo, per renderlo abitabile. Ristrutturazione, sì. Esatto, la piccola ristrutturazione per renderlo abitabile. Ho accorciato la cucina, ho tirato su un muretto e ho fatto un bagnetto di servizio. Tutto questo senza dire niente a nessuno. Adesso non ricordo neanche il perché o il per come. Nel caso io dovessi rivendere l'appartamento, c'è questa differenza, diciamo, di planimetria, nel senso che non è più, per esempio, il tre vani, cucina e bagno, ma è tre vani, cucina e due bagni. E quindi, insomma, qual è la procedura da seguire adesso qualora dovesse mettere in vendita l'appartamento per fare l'aggiornamento catastale, notaio Busani? Allora, cosa deve fare Vincenzo? Ammettendo anche di non doverla vendere, comunque magari se qualcuno volesse così togliersi questo pensiero, magari sistemare queste pratiche. Sa, tante volte le case devono essere vendute anche in velocità e quindi magari è sempre meglio essere a posto. Allora, innanzitutto bisogna fare un passaggio in comune, quindi bisogna incaricare un tecnico di fare una DIA in sanatoria, di enuncia di inizio attività in sanatoria. Ma 15 anni fa non c'era bisogno di fare la DIA, per esempio? Appunto che in sanatoria, nel senso che 15 anni fa bisognava fare una comunicazione per eseguire opere interne. Non essendo stata fatta questa dichiarazione, che era una specie di DIA dei suoi tempi, si chiamava comunicazione per opere interne, l'articolo 26 della legge 4785, non avendo fatto quella, presumibilmente oggi si fa una DIA in sanatoria, cioè si chiede lo stesso provvedimento che sarebbe richiesto oggi per fare quei lavori, salvo far finta, ma io non l'ho detto, di far finta di farli oggi, quindi nessuna DIA in sanatoria, ma una DIA normale oggi, Fatto sta che... Il fantasma di Busani. Fatto sta che facendo questa DIA in sanatoria si sana, tra virgolette, questo piccolo abuso di aver fatto sti lavori interni senza autorizzazione comunale, dopodiché si fa l'accatastamento corretto, al che la casa è perfetta per essere venduta. Benissimo. massimo. Tempo un mese massimo, spesa 2000 euro. 2000 euro. Insomma, Vincenzo, almeno questo. Ci ha fatto pure il preventivo, notaio Busani. Allora, ci rimane un minuto e mezzo di tempo. Io adesso così mi stavo chiedendo quali cose dovessimo dire, delle quali ci siamo dimenticati, ma che comunque vanno precisate. Notaio, magari prima di... Cioè, il problema adesso sarà magari chi si trova un po' a cavallo fra l'aver firmato un compromesso e chi va a argitare a luglio. È bene farsi una chiacchierata con il notaio prima di trovarsi, insomma, a ridosso della scadenza della firma del rogito? Sì, voglio dire, io però non creerei eccessiva allarmismo, perché secondo me sono cose che si sono sempre fatte nell'ambito di una contrattazione regolare su immobili plausibili, cioè nel senso non immobili con radicali abusi. Questa indagine si è sempre fatta, adesso va un po' più specificata. Se prima si poteva chiudere un occhio / fare qualche accordo anche con lavorazioni burocratiche in itinere, d'ora in poi bisognerà anticiparle rispetto al rogito. Quindi ripeto, verificare le planimetrie, guardare che siano corrette rispetto allo stato di fatto, guardare che l'intestazione catastale sia quella rispondente ai titolari dei diritti reali sull'immobile, insomma che l'immobile coincida col suo proprietario, smanettare nel sito dell'Agenzia del Territorio per verificare se il sito dà accesso ai propri dati. Interessante anche questo. Senza affollare il catasto e cercando di fare un po' il fai da te, perché sono cose a cui tutti si possono dedicare, e ovviamente nei casi più spinosi, ove non ci si riesca da soli, incaricare i professionisti. I professionisti tecnici per quanto riguarda le sistemazioni di fatto e le pratiche comunali, e i professionisti giuridici, avvocato, notaio, commercialista per quanto riguarda gli aspetti più contrattuali. E insomma, poi qualche rognera si può inviare anche agli esperti che sono disponibili da stamattina alle 9 fino a stasera alle 18 sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/manovracase. Lì potete inviare tutti i quesiti, domani troverete le risposte. Fermo, notaio, sta facendo un sacco di confusione sul giornale, sul quotidiano, sul Sole 24 Ore, ma magari torneremo anche presto a ridosso del 1° luglio, rifaremo un'altra puntata su questi argomenti. Cristiano Dell'Oste, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E bentornato anche al notaio Busani, ci risentiamo presto senz'altro. Buongiorno a tutti. Arrivederci, noi torniamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.